140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account, @ Marta Cagnola, o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Come di consueto potete mandarci in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Teatro Elfo Puccini, Milano. Il suo nuovo album si chiama 60, come gli anni che sta per compiere. Cosa si regala? Intanto il Festival di Sanremo. Eugenio Finardi. È la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Eugenio Finardi. 60, che bel titolo, che bella cifra tonda. Io vedo entusiasmo in questo 60. Sì, in verità sì. Beh, insomma, è un... Mio padre all'età di 65 anni ha iniziato una nuova vita. Ha lasciato l'Italia, è tornato con mia madre in America, mia madre americana, e ha vissuto fino a 94 anni un'intera nuova stagione della sua vita, per cui mia madre è ancora viva a 93 anni, per cui se tanto mi dà tanto ho ancora 30 anni da lavorare, insomma, quindi è un punto d'inizio, non solo una fine. Questo però è un bilancio di una tappa. Come si è costruito un disco di inediti e, insomma, di grandi canzoni anche rivisitate? È nato, in realtà erano due progetti separati, poi essendo Sanremo una specie di Giove, no, con un'enorme massa e gravità che attira tutto a sé, la partecipazione a Sanremo inaspettata, perché 6 mesi fa non l'avrei mai detto, ha costretto questi due progetti a fondersi, anzi tre, perché c'è anche Gio Colombo, con il quale ho delle prospettive sul blues, che mi hanno, sono stati praticamente attirati tutti da quest'orbita e sono entrati a far parte di un progetto unico. Ma alla fine mi fa piacere, perché il passato è reso attuale dai ragazzi che lo suonano, che sono ragazzi di oggi, più giovani delle canzoni che suonano. Il presente è testimoniato da questi inediti, da questi 5 inediti, ma nel presente ci sono i semi del futuro, che sono appunto la scrittura sia con la band che con Max che con Gio Colombo. In realtà questo disco apre tre nuove vie. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Nei testi tra disillusioni, delusioni, ma anche speranze. Sì, che questo non sia il futuro che noi ci aspettavamo e che ci sia bisogno di un nuovo umanesimo. Stiamo vivendo un nuovo medioevo in cui pochi ricchissimi controllano con grande asprezza e violenza il resto di tutti noi, insomma, la lotta che si sta facendo del 99% contro l'1% dei padroni, dei signori della terra, è una lotta quasi medioevale. Io credo che non possa che portare ad un nuovo rinascimento, a un nuovo umanesimo, che sarà anche un rinascimento delle arti, perché questo mondo fatto di finanza è sterile, è arido, è Satana. E noi uomini siamo fatti per altro, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. È quello che è l'arte, la musica, il futuro deve essere fatto di questo. Sanremo, hai detto la parola magica, perché tornarci, e hai detto volendo fare qualcosa di alto? tornarci perché è impossibile dire di no a Morandi. È una legge della fisica, è una legge universale, quindi come la gravità e la forza centrifuga non si può non obbedire. E poi perché no? Per portare visibilità a tutto quello che ho fatto in questi anni, a quello che spero di fare nei prossimi, per portare anche una visione della musica e del modo di farla da indipendente, da sognatori, da musicisti. Indipendente, importante, perché in un mondo in cui le major non hanno più lo spazio che avevano prima, adesso cosa bisogna fare? Ma secondo me bisogna fare quello che facciamo io, che fa Max, che fa Joe anche. Ci facciamo i nostri dischi, facciamo la musica che amiamo e poi vediamo chi ce la compra. Che ricordi hai invece dei Sanremo passati, perché sono stati molto belli e con delle canzoni che sono anche rimaste? Il primo ho un pessimo ricordo perché non lo volevo fare, avevo la febbre, ero in playback, sono uscito con i pantaloni aperti davanti, ho dovuto fare una strana giravolta per chiudermeli, mamma mia, un ricordo terribile praticamente. Mi ricordo un Sanremo fatto con la boule dell'acqua calda, con i sulfumigi, le cose. Il secondo è stato divertente, ma col senno di poi, a Mamilara, io avevo in realtà presentato una canzone più seria, più profonda, e mi ero fatto convincere dalla casa discografica a fare il pezzo più radiofonico, eccetera. Questa volta lo affronto proprio, spero di farlo, non mi vestirò diversamente dal solito, sarò vestito così, come sempre, cerco di affrontarlo come un concerto come gli altri. Insomma, dopo tutto ho fatto due volte la Scala, che è un palco un pochino più, senza offesa per Sanremo, però insomma, se lì ce l'ho fatta, spero di farlo. Concludere con una tua citazione: sono fiero di essere un hippie ancora oggi. Sì, sono fiero di essere un vecchio hippie che non ha tradito la causa. E finché avrò un capello in testa sarà lungo. Mi sento solo in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. Fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La seconda parte del nostro 140 caratteri. Fonderia Napoleonica, Milano. Lucarelli, Dazieri, non di carta ma in audio per il progetto Autorevole, audiodrammi a teatro, eredi di Wells che diventeranno podcast. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Carlo Lucarelli, un testo teatrale in audio che va alla radio. Com'è nata questa suggestione e questa idea radiofonica che hai avuto? Certo. Beh, la suggestione è nata dalla richiesta ovviamente di Ferrentino, perché io sono uno scrittore di libri, quindi le idee che ho sono per romanzi sulla carta. Poi ogni tanto incontro qualcuno che invece ha delle idee più geniali, che mi dice: perché non proviamo a fare questo? E questa cosa è sempre entusiasmante, quindi avere a che fare con il suono, con l'audio, con la radio, con il web in questo modo. Poi mi sono messo lì a pensare una serie di cose che avessero a che fare con la radio, perché la radio mi ha sempre colpito, incuriosito, che avessero a che fare col giallo, che ovviamente è insomma il mio ambito di ricerca, ed è venuto fuori questo Radio Giallo. E niente, è stato divertente, perché invece di scriverlo con gli occhi, come si fa di solito, ho dovuto cercare di scriverlo con le orecchie. Questa è una cosa molto stimolante. Il giallo colora tutto, riesce a colorare tutto? Sicuramente sì. Sì, già abbiamo inventato sfumature infinite solo per dire questa parola. C'è il giallo, poi è diventato il noir, poi è diventato tantissime altre cose. È la narrazione base, secondo me. Nelle caverne penso che sia stato questo il primo tipo di narrazione. Sono uscito e sapete che ho incontrato? Che cosa? Un mammut, va bene. Però la domanda è sempre: sapete che ho incontrato? E questo è un giallo. Santroni Dazieri, come è nato questo audiodramma? La storia, in due parole, è quella di un uomo che va ad Amsterdam per capire perché sua moglie si è ammazzata. Sua moglie era una storica che indagava su Anna Frank, sapete che c'è la casa di Anna Frank ad Amsterdam, e indagava sul tradimento. Sapete che si dice che è stata tradita la famiglia Frank. Però per qualche motivo questa ricerca, a un certo punto lei è deragliato e si è ammazzata. Lui va e cerca di capire che cosa è successo e scopre sostanzialmente che sua moglie cercava delle verità altre rispetto a quelle della storia tecnica, e quindi dei documenti, cercava di capire un po' l'animo umano. E questo è il discorso del tradimento, poi è un filo conduttore che lega anche la sua storia con il marito. E allora aveva cominciato a farsi di funghi, la psilocibina, eccetera, che sono i funghi magici, cosiddetti funghi che sono stati per centinaia di anni usati nei rituali sciamanici anche prima, e che adesso ad Amsterdam sono venduti un po' come una droga ricreativa. Ti fai il funghetto, una specie di LSD leggero, e ti fai delle cose. E lei ha cominciato a prenderli e a scoprire delle cose su di sé e sul mondo, e il marito un po' alla volta segue la sua strada. Ecco, questa è la storia. Una storia perfetta da rendere visivamente, esatto. Invece. E infatti la difficoltà è stata: come rendo un delirio, cioè stati di allucinazione, ce lo ricordiamo tutti, vedevi le allucinazioni di questo, come lo rendi col sonoro? Ho usato la tecnica, almeno in parte, con tutte le modifiche del caso, è un po' del romanzo gotico ottocentesco, di quello che fa, che racconta l'esperimento misterioso, quindi ho fatto questa cosa e mi è successo questo, lo racconta un po' Jekyll e Hyde, che racconta... ecco, ho ottenuto un po' questa cosa, che lui racconta le sue esperienze a degli interlocutori, tranne l'ultimo viaggio che viene descritto invece in diretta, in cui lo assistiamo in modo sonoro, diciamo così, al suo viaggio, che è il viaggio che chiude il percorso, in cui capirà delle cose. Ecco, lì è proprio la diretta. Una Hotel Talk Milano. Scrittrice, autrice, conduttrice e ai due fratelli più famosi d'Italia, Casca il mondo, Casca la terra, il suo ultimo romanzo, Catena Fiorello. Allora, intanto ci abbiamo le voci in sottofondo qua di cinque uomini. Come vedi, come nel romanzo, io li massacro in qualche modo, no? No, li massacro, perché poi il maschio non esce mica tanto vincente da questo romanzo, mi sembra di... Ma neanche in quello prima, di Picciridda. E 2 anni, realmente, cioè sono stati proprio realmente 2 anni della mia vita. Cioè 2 anni reali e concreti di nottate, di giornate, perché sicuramente i lettori accaniti, appassionati come me, ma anche gli scrittori, si rivedranno molto in questo piccolo racconto che faccio. Cioè c'erano certe volte delle sere io andavo a letto e poi tipo verso le 2, le 3 mi svegliavo di soprassalto e dicevo: oddio, no, meglio metto, mi è venuta in mente sta cosa, questa frase, no, allora forse la cambio, perché il verbo di prima. Proprio 2 anni passati così. La protagonista è una donna tutt'altro che perfetta. C'è un fascino per le figure insomma non così prevedibili? La distonia è che di questo personaggio è che lei pensa di esserlo invece perfetta, come tutti noi, no? E che poi nella realtà lei è l'emblema della imperfezione umana. Con Vittoria io ho voluto raccontare un po' di umanità, cioè soprattutto l'umanità delle persone che si sentono in qualche modo superiori alle altre, l'umanità delle persone che pensano di avere qualcosa in più degli altri, che poi è un qualcosa in più che appartiene al mondo materiale. E questa donna poi a un certo punto della sua esistenza però ha il coraggio di capire che questo più appartiene a una sfera meramente materiale, che quindi non rappresenta assolutamente nulla. Sorpresa per te. Dimmi. Una grande sorpresa. Perché le dico, la Fioretti Cesare in via Flaminia Nuova gli è subito arrivato il libro di Catena Fiorello. Casca il mondo, casca la terra. Rizzoli, il romanzo. Vabbè, adesso sembra che gli faccio la pubblicità, però devo dirti, mi fa impressione vedere il cognome mio scritto su un libro. Quello mi fa, quello mi fa te lo devo chiedere per forza, questo endorsement che ti ha fatto tuo fratello su Twitter. Mi dai l'occasione anche di spiegare anche una cosa molto importante per me, perché da lì poi parte tutto il resto del capire anche la persona Catena Fiorello, prima che la scrittrice. Quella mattina che mio fratello andò a fare il suo solito così, Cesare, pensando di fare una cosa gradita e carina, che per carità gradita sì, gli ha fatto vedere sto romanzo. Se non che esattamente dopo un giorno io vedo su internet, non mi ricordo neanche chi, un sito dove diceva sottilmente, con una vena anche se vuoi un po' malignetta, Fiorello diventa lo sponsor del libro di sua sorella. Allora io ho detto, perché questo? Perché questa vena così un po' cattivella? No, sembrerebbe la cosa più normale del pianeta che un fratello appoggi una sorella. In questo caso, veramente, Rosario, e si è anche visto, per uno che è intelligente, lo vede che... Era anche imbarazzato perché non l'aveva letto. No, sai, mi ha detto perché era imbarazzato? Perché, guarda, lui è così avanti, Rosario, che mi disse, io so già, e infatti è accaduto, che domani diranno che io t'ho fatto lo spazio. Perché la delizia e la croce, se vuoi, e non di chiamarsi Fiorello, è anche questo: avere la fortuna di essere la sorella di due bravi ragazzi conosciuti in tutta Italia per cose buone, sane, ma nello stesso tempo non poter dire neanche mi piace il libro di mia sorella, che lo direbbe qualunque fratello e qualunque sorella del pianeta. Tu ti chiami Fiorello, devi giustificare tutta la vita che non è vero che sei un raccomandato. Allora io sono sincero, io non l'ho letto, però l'ha letto mia moglie. Com'è? E io di mia moglie mi fido. Mia moglie mi ha detto, oh, ma sai che è veramente un bel romanzo? Ho detto, ma è perché è un romanzo, eh? Allora, ora sembra uno fa conflitto di interessi, vabbè, basta, ho fatto no, lei, però basta, posso basta. Dire senti, ma così? Quando torni in televisione? No, non ci voglio tornare più per lo stesso motivo. Ed è tutto per il nostro 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno via Twitter. Basta seguire il mio account @MartaCagnola oppure l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Ci risentiamo la prossima settimana.